Europa 24. Un saluto e un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, il tema dell'immigrazione in primo piano, e torna in primo piano anche la tensione tra Ankara e Bruxelles. Come parte dell'accordo con Ankara stiamo lavorando per la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi, dice Bruxelles. La Turchia deve soddisfare tutte le condizioni restanti in modo tale che la Commissione UE possa adottare la sua proposta nei prossimi mesi. Insomma, sullo sfondo l'accordo per trattenere di fatto una parte dei migranti e profughi siriani in Turchia, ma appunto la questione sembra complicarsi. Ankara alza la posta, mentre la Commissione europea fa sapere di aver staccato un assegno di ulteriori 110 milioni di euro per la Turchia. Nell'ambito dell'accordo sui migranti, il premier turco Davutoglu, prima di partire per Strasburgo, dove vedrà il presidente della Commissione Juncker, ha detto: se non avremo l'esenzione dei visti a giugno, nessuno potrà aspettarsi che la Turchia mantenga i suoi impegni, che se non è una minaccia, poco ci manca. Intanto proseguono i contatti tra il governo italiano e Berlino. Dopo la bocciatura di Angela Merkel del piano proposto dal premier Matteo Renzi per finanziare il salvataggio, l'integrazione dei migranti e gli accordi con i paesi di origine con gli eurobond. I fondi vanno trovati alzando le tasse sulla benzina, è la prima indicazione che arriva da Berlino, una proposta inaccettabile per Roma. In ogni caso, il Migration Compact, come viene chiamato, non potrà vedere la luce prima della fine di giugno. 2 mesi di tempo quindi per tessere una tela. La prima tappa è oggi, quando il ministro degli interni italiano Alfano vedrà il suo omologo tedesco. La radice del problema, ha detto Alfano questa mattina, è la Libia, ma l'esecutivo di Sarraj è ancora in attesa del voto del Parlamento di Tobruk. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo invece Martin Schulz, lo sentiamo in sottofondo, naturalmente presidente del Parlamento europeo. Dunque, in un'intervista che per ragioni di tempo non abbiamo ancora doppiato, Schulz risponde essenzialmente a due tempi, da una parte a quello sul progetto italiano, la proposta italiana per un compact sull'immigrazione. Lui dice: l'ho visto, l'ho letto, ci sono molti punti di interesse, ci sono alcuni punti nuovi, ci stiamo lavorando e valutando. Sergio Nava, che realizza l'intervista, poi gli chiede un punto sull'allarme lanciato stamane dalla Bild Zeitung. Chiede: potrebbe non andare più in Italia per le prossime vacanze? Lui dice al contrario. Io, dice Schulz, sono andato poche settimane fa a Sousse, vi ricordate, la spiaggia della Tunisia che fu oggetto appunto dell'attacco dei terroristi proprio contro i bagnanti, più che mai inermi. Quindi Schulz dice: non dobbiamo assolutamente permettere che questa logica della paura appunto si diffonda e si affermi nella nostra società. Tutto questo dunque per un'intervista al presidente del Parlamento europeo Schulz. Ma oggi abbiamo anche un altro tema da Bruxelles. A Bruxelles infatti si è aperto il forum annuale della cultura, l'appuntamento che riunisce tutti gli operatori del settore per fare il punto sulle politiche culturali comunitarie. L'europarlamentare Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo, ha dato l'annuncio che nel 2018 sarà l'anno europeo del patrimonio culturale, un impegno formale dell'Unione europea per ridare centralità alla cultura, un settore che, è bene ricordarlo, rappresenta quasi il 5% del PIL, oltre 1 milione di imprese, 6 milioni di addetti. Oggi il Forum Europeo della Cultura a Bruxelles si è aperto con una grande notizia, che è anche il grande risultato di un impegno che abbiamo avuto fortemente come Commissione Cultura, anche con il sostegno importante del Presidente Schulz, ovvero quello di dedicare il 2018 all'anno europeo del Cultural Heritage, cioè il patrimonio culturale. Si tratta di una grande vittoria, perché abbiamo dovuto vincere molte resistenze della Commissione, e anche perché era stato da noi voluto insieme alla Presidenza italiana già da dicembre 2014. Credo che sia da spendere molte parole per dire quanto sia importante rimettere al centro delle politiche europee che in questi ultimi anni non hanno sufficientemente valorizzato la grande risorsa che il patrimonio culturale materiale, immateriale e anche digitale ormai significa per le competenze, per la valorizzazione della diversità culturale europea, del grande patrimonio diffuso, ma anche per il turismo culturale, ma anche per la crescita e nuova occupazione. E quindi questo sarà un obiettivo importante e noi crediamo che con il nostro rapporto che abbiamo approvato a settembre abbiamo indicato alcune linee su cui bisogna lavorare e adesso la Commissione, cioè il commissario Navracsics, dovrà presentare su richiesta di Juncker entro immagino settembre una proposta di programma ufficiale dell'anno e abbiamo chiesto fin d'ora che vogliamo partecipare attivamente alla definizione di questo. Bene, con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Adesso naturalmente, come sempre, la linea va a tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.